venitevene qua, mollate tutto e venitevene qua di adesso. Eh beh, quello era qualche anno fa, quando c'era la cosa in Crimea. Ma hai visto? Cioè, ma li hai visti chi sono quelli della Crimea, quelli estremisti? Cioè, buttate subito la bomba atomica, quel pazzo. Cioè, ma veramente ne prendi 5, li metti insieme e succede il patatrac su questo pianeta, eh? Sì, ma tanto crepano anche loro, se buttano la bomba atomica crepano anche loro, non si salva nessuno. Vabbè, Hiroshima e Nagasaki l'avevano buttata la bomba atomica e ancora siamo vivi. Sì, è vero, ma quanto è costato? Tieni presente che molta gente ha un'idea un po' sballata di queste bombe tattiche. In realtà quella di Hiroshima, e di Nagasaki sono esattamente il corrispondente di una bomba tattica. Quelle strategiche invece sono a livello di nazione, cioè ti distruggono l'intera nazione, perché sono formate da tantissime bombe atomiche all'interno dei missili intercontinentali. Quindi anche se tu ne butti una in Ucraina, in una zona più o meno abitata, quella zona per anni non potrà essere, non è più di nessuno, hanno perduto tutti. E poi bisogna vedere la reazione di tutti quegli altri che ci sono fuori, che reazione vuole, cosa ti dicono, bravo, ti dicono che sei un pericolo, che oggi c'è lui, come sta già dicendo la Polonia, oggi sei un pericolo di lì, domani sarai un pericolo per l'Europa intera. È sempre la stessa storia, è da lì che può scaturire una fiammata e chi la controlla più poi. Beh, il grande di questo dittatore, perché il dittatore si è sparito, non funziona più bene. Speriamo che non gli venga qualche flash, perché c'è la paura, ci sono già tutte le navi americane, portaerei, una portaerei la più grande del mondo che era in mare già pronta per bombardare, per fare partire gli aerei di caccia, dai. Insomma, è un casino, è un casino. Loro sono già pronti, poi gli americani anche loro sono di quelli che sono attaccabrighe, e per cui solo che un po' bloccati lo sono, perché sanno che la Russia è ancora più potente di loro. No, la NATO è più potente di loro. Mi hanno detto chiaramente che dopo che hanno scanciato eventuali bombe di quel tipo, di tipo tattico nucleare, tempo un paio di minuti, loro flotte non ne hanno più, perché tutta la flotta della Mar Nero sarà cancellata in un colpo solo, e questo lo possono fare in qualunque momento, perché sanno punto per punto dove sono tutti loro. Soldati in Ucraina hanno detto che non ce ne sanno più, tempo 10 minuti, perché con tutte le armi che c'è la NATO li può fare fuori a uno, senza sbagliare, perché sono enormemente superiori in tecnologia. Piuttosto ti volevo dire, può dipendere da me, non lo so, io ho l'apparecchio normale e il presidente, però ho l'impressione che si è calato di segnale, infatti ti ho perduto per un attimo. Hai toccato qualcosa? No Gianfra, non ho toccato nulla. Questo qui ha 3 watt, non è come gli altri apparati. Questo sto succedendo con 3 watt io, non so se stai parlando da quando è iniziato ad adesso oppure se, ma qua mi risulta tutto a posto. No, prima non c'avevo problemi, eri tranquillo. Adesso aspetta che questo ne approfitto che almeno qua, anche se è digitale, sempre c'è. Parla un po'. Guarda a vedere, qua mi segnala tutto tranquillo. Aspetta che guardi il watt. S7, non lo so se tu sei in ottica, dovresti essere. No, i watt sono uguali, dai, sono 3 sempre. Io quanto sta arrivando? 6:15, dai. Sono questi, io sono, adesso te lo dico, se riesco a vedere, mamma mia, cataletta e carogna brutti, eh. Esattamente, questo affare mi segna lo strumento 2 watt. 2 watt e niente. Aspetta un attimino che cambia parecchio, vedere. Dammi un attimino. Siamo qua. Natalino, ci sei? Esci fuori. Gianfranco? Sì, aspetta che mi devo rimettere gli occhiali. Vediamo un po'. Prova. Guarda come mi ascolti. La radio mi piaceva più quella di prima, adesso è molto bombata. Bom, bom, bom. Però il segnale è 9.10 e 9.10 sono pure 9.15, perché dopo il 9 va direttamente a 30. E quindi è notevolmente molto molto ma molto più alto di quello di prima. L'apparecchio l'altro c'ha 3 watt, capito? È quello il problema. Ma non è che ti sentissi male, però sta guardando a questa distanza, anche perché anche io sto usando la stessa potenza, forse anche di meno, però insomma tu dovevi arrivare più o meno lo stesso, invece lì molto più basso, tenendo presente che comunque poi la precisione di questi attrezzi non è proprio il massimo. Però magari se c'è qualcuno mi faccio dare il segnale, vediamo un po' se è così come dici tu, ma qua sta andando tutto per il meglio, vai. Ma con quanto sta andando adesso? Adesso con 20. Sì, addirittura. È i 7 gradi prima, anche se come radio, ripeto, io preferivo quella l'area più colloquiale, da salotto proprio. Guarda adesso, dai, la radio è migliorata. Hola, hola, hola, hola, hola. No, guarda, con questo io non so se tu li conosci, se ce li hai gli apparecchi da adesso, questo è il Lincoln 2+, quindi abbastanza recente, abbastanza cosa, però con le modulazioni potenti, tale taglia. Guarda, ho provato anche a guardare su internet se c'era possibile di allargare il filtro, di trovare rimedio a questa cosa, ma se entra qualcuno con la radio, come dire, un pochettino bombardata, se lo taglia e non si sente più niente. Sì, lo fa anche a me il Cobra, questo qua me lo fa. Quando per dire sono troppo vicini si sente come se fossero fuori frequenza. No, questo ti taglia proprio. Dovresti parlare lontano dal microfono, allora ti fa passare. Ma se ti avvicini, niente, ti taglia immediatamente, non si sente più un tubo. Questo è dovuto sicuramente al filtro che è un po' più stretto, tutto lì. Comunque ripeto, io preferivo quella di prima, il segnale era più basso, te l'ho detto, perché magari poteva essere anche un mio problema, però la radio per me era migliore. Questo è più potente, questo qui senza ombra di dubbio, magari la posso abbassare la radio, guarda, così l'ho messa a metà, vediamo un po'. Così inizia a diminuire questo effetto di taglio, anche se poco fa sentivo la gente che parlava, non so se era un televisore o cosa era. No, era la mia compagna. Quindi, guarda, questo, a parte questo problema, che a volte fa anche fastidio, che ti taglia le modulazioni troppo forti, però come apparecchio mi ha sempre meravigliato, perché io sto usando un microfono normale, ma mi dicono che la radio è giusta, diciamo, non è potentissima ma non è neanche bassa. No, è bella presente, anche quella di Saverio stesso c'ha un president, è la stessa cosa, infatti ho detto se stavo usando un microfono amplificato, mi ha detto di no, che è il suo microfono originale. Sì, è il classico microfono da palmo con i due pulsanti, devo dire che va bene oltre migliore rispetto ad altri che ho. Quelli lì veramente hanno la voce bassa, tutta sembrava guazzata. E questo si vedono anche i picchi, sia sullo strumento sia sull'apparato. E questo ne dà di fatti, volendo anche, perché credo che arrivi, non so se 15, e in FM va a 30 addirittura. Sì, il preso è un bel apparato, non mi è mai piaciuto come estetica, però dico la verità. Il base mi piace, il base ce l'avevo io, quelli vintage, bello, Beh, la President ha sempre fatto dei buoni apparati, è bello anche quello che c'ha Marcolino, sempre della President, che c'ha l'altoparlante nel frontale, che poi non ho più sentito, chissà che ci ha fatto. E è entrato anche ieri, mi pare. Adesso le fischiamo le orecchie. Lui c'ha il President lo stesso, ma la radio è ottima. Sì, sì, ma anche col 3009 c'è bene Marco. È così. Le nuvole più o meno sono un po' veloci e stanno sempre salendo l'Alghero, quindi chissà, speriamo che non ci arrivi un altro temporale. E se fa di notte non ci disturba, ma di giorno, di sera, chi deve uscire eccetera, le rompe le scatole, dai. Vabbè, il tempo suo, diciamo, siamo già a fine ottobre, non possiamo chiedere di più, però la paura è che oramai stanno nascendo queste tempeste di fulmini e io ci ho già rimesso un computer, quindi sai com'è, no? Può fare anche il temporale, però insomma queste scariche poi ti arrivano dall'impianto elettrico e non sono fortunatamente delle scariche che ti colpiscono l'antenna o chissà che cosa, però dalla corrente elettrica ti fa saltare tutto. E io ho anche l'antifulmine, tra l'altro il coso lì, come si chiama, il salvavita proprio specifico per queste situazioni, ma che è riuscito a passare, mi ha bruciato l'hub dell'USB e poi se l'è presa col computer. Era acceso in un attimo, giusto per controllare una cosa, ho sentito questo botto. E vabbè, alle radio che non ha acceso non ha fatto niente perché sono alimentate a batteria. Parafulmine non è altro? No, non ho capito adesso. Mettiti un parafulmine di modo che scarichi via e va. No, no, non ti capisco, ho sempre quell'effetto, sta parlando troppo vicino e quindi ti taglia. No, sono lontano, ho detto mettiti un parafulmine, mi hai ascoltato? Adesso è perfetta, vedi? Se tu superi appena appena quel certo livello del filtro ti fa pizzi, guarda, ti fa pizzi, diventa incomprensibile. Tra l'altro poi non si trovano neanche caratteristiche specifiche, no? Per sapere a quant'è questo filtro dell'AM. Sì, sta diventando sempre più nero, qua ci scappa il temporale, vedrai, perché adesso sono i venti che vengono e spariscono come l'altra volta, però sono più pericolosi anche. No, il parafulmine, guarda, ci sono già tutti i pali dell'elettrodotto giù, molto più giù di me, che se li becca tutti i fulmini, infatti a contatturi, a gogo ne cambiano. L'importante è che non mi pizzi l'antenna, se no mi fa saltare in aria la stazione, un po' da coffe. Eccolo sì. Sono bestiali i fulmini, sono bestiali. Io infatti stacco sempre la corrente quando ci sono questi temporali. Stacco le prese degli apparati, dove ho la ciabatta, dove sono attaccati tutti gli apparecchi. Stacco la spina e basta. E che è questo? Boh, qualcuno che probabilmente non ha sentito niente, perché almeno mi auguro. C'è uno che sta fischiando sotto. Sì, sono brutti. Poi adesso che capitano d'improvviso, perché magari qua si mette a piovere, fra carbonazzi non sta piovendo, sono quasi temporali di quartiere oramai. È un casino. E poi contro la natura l'uomo non riesce riesce ad andare. La natura è una cosa tremenda, è fortissima. Io guarda, quella volta che ha fatto quella tromba d'aria, stavo andando a lavorare, mi sono caduti gli alberi davanti alla macchina, addirittura me ne ha buttato fuori quel pattane, ma non mi sono fermato perché c'era l'acqua che arrivava al cofano della macchina. Lo so, io ero fermo e mi stava fermo col fuoristrada, tra l'altro sembrava dentro una lavatrice, porca miseria, l'ho dovuto mettere di punta perché se mi, siccome è alta, all'epoca c'avevo cioè quello alto, se mi trovava di traverso me la capottava. Praticamente stavo andando a lavoro, stavo facendo solo sui Vidriati, la zona di Monterraso, proprio dove sono le curve lì, c'era l'acqua che discendeva a fiume. E io invece mi ricordo che ero tornando, credo, da Sorso, eccetera, e ho trovato questa cosa, ho iniziato a non vedere più niente nel vetro, ho detto no, qua mi infilo in un posto e mi fermo, e sono firmato, infatti al centro di lì dove c'era la piazza per evitare gli alberi, ma non ti dico, è stata brutta. Alghero è stata anche peggio. A Borgottone se praticamente tutti i cassonetti della Mondezza camminando si sbattevano le macchine, un casino, ha fatto volare quei contenitori che mettono per fare la cosa porta a porta, tutti volando nella strada. Sì, ma sono sempre più frequenti, sono sempre più frequenti. Hai visto quel filmato, adesso non ricordo se fosse in Canada o dove era, che ci sono le case di lì, tradizionalmente sono case in legno, l'ha presa, non c'è rimasto niente, proprio le ha fatto tabula rasa, proprio la casa che camminava, se non fosse stato ripreso era anche difficile credere, c'è la casa intera che camminava, tutta questa serie di case le ha pizzicate in pieno, le ha fatto proprio una distruzione micidiale. E chi che si porta via? Le macchine galleggiano, non le viste al televisore, le macchine galleggiando come barche, le portava via. Sì, perché poi arrivano. Infatti ci hanno paura anche adesso che c'è nell'isola di Vulcano, no? Che sta buttando un sacco di energia fuori, ci hanno paura che succeda anche lì un com'era? Adesso mi viene tsunami, ecco, un tsunami con onde alte, perché hai visto, no? Quando cade quei lapilli lì caldi, trovano le esplosioni perché c'è una temperatura enorme, e ciò può creare veramente una specie di maremoto. Mamma mia, quello lì noi lo dobbiamo temere, perché il maremoto qua è possibile, il terremoto no, ma il maremoto è possibile che venga in Sardegna. E tutto è possibile, quando meno te l'aspetti, è così. Chi è che vuole entrare? Ogni tanto c'è la portante, portantina, avanti. No, negativo, vabbè. Ok, già, da, io me ne vado. C'era anche un ascolto su, come sempre, ma tutto touch. Se sono tutti promossi, no, in quella ala, e poi su non c'è più nessuno, sembra una presa in giro. Io sono a 145 525, lo stesso lo scelte di Nellomi, svegliato, sì. Sì, un po' più importante, Nellomi, ciao Andy. Ma guarda, con chi ce l'hai? E vieni tu allora a dirci le cose giuste, che ti stavamo aspettando, eravamo anche in imbarazzo. Per un ascolto possono essere milioni, ma se nessuno parla. Ecco. Qua si è fatto tutto al buio, tutto nero, Speriamo bene. Ecco. Avanti! Fate un controllo del radio, per favore, di Santiago. Ma qua non arrivi molto forte, comunque ti ascolto. Santiago 3. E buonasera, ben sentiti, Godzilla sono. Chi sei? Godzilla. Godzilla, no, scusa, volevo dire radio 3. Santiago è più alto, Santiago è 6. Va bene, se aumenta un attimino, aspettami. Oh, guarda, guarda così, guarda, ola, ola, ola. La radio è troppo bassa, dovresti fare qualcosa alla radio perché è troppo bassa. Dove sei? Sonso. A Sonso? E Sonso. No, non ti ho capito. Ripeti, dove sei? Sonso. Ah, Sonso, dai, allora ho capito bene. Ho capito. Gianfranco, cosa fai? Vai via oppure resti? No, vado via, che devo, vado fuori un attimino a vedere cosa sta arrivando di bello, che non si vede già un tubo. Fino a poco fa c'è la luce, sono tutto buio fuori. Sai, a scanso di sorprese. Va bene, va bene. Io lo sento comunque l'amico di Sorso che molla troppo rapidamente il microfono. Per quello che non lo sentivi, S7 lo stesso, però la radio quando preme il microfono va bene, quando poi l'ho mollato troppo in fretta ha spezzato la parola. Ok, già, dai, buona serata. E chiediamo scusa per le fesserie che abbiamo detto. Oi. Ci sentiamo, dai, ciao, già. Lui non cambia mai. Ciao, ci sentiamo. Stammi bene, Gianfranco. Anche tu, ciao. Se tu cambi. Oia, ancora noi. Ecco, mi fate entrare. Per me non sono fissi, sono argomenti attuali che abbiamo... Cioè, di argomenti attuali che abbiamo parlato, non di fissi. Ecco. Quello, gatto, sei sempre, mamma, sempre puntualizzando cose diverse. Stai più attento. Io mi riferivo a Gianfranco. Se non c'è mai nessuno a 525, io sono sempre lì. Che cazzo me ne frega a me dei discorsi che fate qua, me ne affutta assai. Ecco, mi fate entrare. Adesso come fai tu qua? Mi fate entrare però, aiuto. Ci siamo capiti, no? Mi fate entrare. Siete poco per maluci, grazie. Ma mi fate entrare, ora che state parlando, si può entrare qua? Avanti chi sta chiamando, avanti. Avanti chi sta chiamando, però se fate entrare persone, se fare così, a modulare così, state bene a casa. Ma possibilmente, magari non ti ascoltano, perché anche io ti ascolto molto basso di radio, Ti ascolto bassissimo. Qua non arriva per niente. Ma te ti sento, a quell'altro che sta, che adesso mi ha schiacciato la porta a testa, non si sente. Boh, non ho capito cosa ha detto. Ho sentito portante, però non ho capito cosa stava dicendo. A te ti sento, è l'altro che non sento. Mettici un po' di potenza, perché sennò non ti sentiamo. Ma mi sentite adesso? Adesso un po' meglio. Quell'altro sordo mi sente? Claudio, l'ascolti adesso? Basso, non so chi è. Gianni Cadalora sono. Calderone. Calderone sei tu, Cadalora. Cadalora, Gianni Cadalora, tu lo conosci? No, a Calderone conosco io, ma questo non lo conosco, non ho mai sentito. Non l'ascolto l'amico, chi è l'altro amico che sta parlando? Cosa, già? Non lo sento l'altro amico, sembra che stia parlando dentro un fosso. Ma il problema è tuo, non suo, Lui esce forte, è abbastanza forte, no? Il tuo è il problema. Il problema è il suo. Il problema è il tuo, vabbè, non me la fotte nulla comunque, io non ti sento, ciao. Spiritoso stai facendo. Ecco. Buonasera, ho sentito a Gianni, a Claudio, un attimino ho sentito a Gianfranco, stavo facendo cosa, ho tenuto acceso qualche minuto fa, e poi l'amico, chi è l'altro, come si chiama? Gianni da Sorso. Gianni di Sorso, ci sei? Io ti sento, ma ti sento piccino, non ti intendo. E qua sta arrivando 9+10 a Puglia, sta arrivando a bomba. Io sto arrivando a bomba. Ma dove sei tu? Sorso. E non mi senti a me, io sento a te e tu non senti a me. Mi sento fievole. Non lo so allora, io ti ascolto molto bene, 9+10, la radio perfetta, nessun problema. Non sono fortissima, ma ti ascolto bene. Ma la dovete smettere di comprare le radio in edicola, mia. Sorso, come mi ascolti a me? Un gancio, sì. Cosa? Un gancio. Guarissima. Ma Claudio è andato via. A me pare un mezzo milione, comunque, sarà, ma non ci credo. Ciao, Robert, no, sto facendo cose. Anche io ho acceso un attimino, mi stavo ascoltando nel sottofondo perché sto sistemando delle cose, ho messo un altro monitor nella stazione per la radio nuova, sto cercando un po' di renderla un pochettino più ergonomica, diciamo, più facile da utilizzare, ne ho spostato delle cose, dai. Ok, e beh, tutto a posto qua. Sì, sto preparando la roba in partenza, quindi sto facendo gli spostamenti, rifascettando, facendo, la roba che ho venduto, la sto preparando, capito? Ma tengo a posto, ci sentiamo dopo. Yeah. neanche io adesso continuo a fare quello che stavo facendo, se no ho poco tempo, poi domani devo fare un sacco di cose, domenica devo andare a Cagliari, non ho tempo per farle. Dai, vi ascolto eventualmente Gianni, anche l'amico, come si chiama l'amico di Sosso che non si è presentato? Io sono Roberto, comunque se mi dici anche il nome tu. Sono Teodico. Non me ne dici, io te l'ho detto, vuol dire che non mi puoi parlare, vabbè, tanto io sto facendo cosa, continuate voi, ciao Gianni, ciao Claudio e anche l'amico che non ha detto il nome. Bravo, ecco, cosa va? Quello è un bidone, non c'è Sosso quello. Vabbè, problemi sui, dai. Non c'è problema, non ce l'abbiamo con le radio sicuramente, dai, io continuo, faccio altre cose, dai, buon tutto, Mario, più tardi quando finisco, se c'è qualcuno continuiamo eventualmente, ciao ciao. Ciao, ciao. Bravi, non è a Sosso, quanti non già più che avrei a Sosso. E l'altro la bidonendi, ma a me già non mi bidoneccia. Ciao Fra, ciao Roberto, ciao Gianni, sto facendo cose, sentiamo dopo. Va bene, dai, io sono qua. A Sosso, se no io l'avrei sentito tranquillamente, anche vicino a Sosso. Ciao Franco, ben sentito anche a te, dai, io interrompo perché sto facendo roba, dai, ci risentiamo in altre situazioni, non so dopo, se c'è qualcuno provo a accendere, dai, ciao ciao a tutti di nuovo. Ciao, vabbè, ciao anche a Gianni, io sono entrato solo a dirvi che quello è un bidone, che non è a Sosso quello, perché se arrivano le 10 a Coso, a Roberto, figurati a me come mi dovrebbe arrivare. A me mi arriva basso di radio, poi ha aumentato, invece ha attaccato qualcosa, ha aumentato un pochino, ma non più di tanto, capito? La Sosso a me mi arriva in tutti i versi. Infatti. No, ma non è a Sosso quello, se no io l'avrei sentito, perché io a parte non l'ascolto per niente, però non è a Sosso. Sì, tanto noi, ma nel caso nel freddo ci fa via a Sosso, a Sino, e dove non ci interessa nulla. L'abbiamo chiesto solo per sapere la zona, perché lo sentivamo un basso. Caffa. Ok, già, dai, ti lascio che sto parlando in verticale. Vabbè, dai, chiudo tutto, buonanotte. Abbiamo già acceso tutto quanto, se mi sta Roberto, pensavo si trattenesse, invece se n'è andato anche lui, adesso lo spiego di nuovo tutto, ha acceso le luci, tutto là. Ma cercate di essere meno educati. Alla prossima. Ciao, ciao, Fra, ci sentiamo. Cerca di essere un cazzo. Comunque, se vi dico chi era, non ci credete. Claudio. Non ve lo dico perché sennò sta fottito da tutti, dai, lo conosciamo benissimo, è il solito personaggio, ok? Io già non lo so, cacchio, sta fottito da tutti, lo sa, infatti era, sta facendo il prepotente, cacchio, ha detto chi c'ha mozzi, e a me già non mi ha fottito, già lo sai, io sono molto schietto, ci metto poco a mandare a far culo la gente. Ciao Grode, entri, anzi che fare un acqua, io, che siamo un po', però non ci facciamo due risate. Dai, è fine, cosa mandi a far culo la gente, smettila, ciao Claudio, sto bene, ciao Robè, anche a Gianni e agli altri che passano in ruota, dai, intanto mi diverto, vi stavo ascoltando comunque. Perché stai arrivando così basso, Antu? Che c'è l'antenna di cartone. Di cartone, da te torna con la pioggia non si sciolga, mi... Facciamo mai ci scoppia la rissa, stavi creando una rissa in frequenza, tu. Come al solito. Dai, continuate voi, sto facendo roba, dai. Ciao a tu, ben risentito, fatti sentire quando vuoi, sai dove sono anche. Rimango in ascolto, ero qua che stavo sistemando lo studio. Ci sentiamo prossimamente, ciao Claudio, ti tiro le orecchie quando ti vedo, C'era qualcuno che chiamava, hai fatto entrare avanti, chi chiama? Buonasera, dai, volevo sapere come è andato questo microfono, grazie. Radio Citofoni. Va bene? Io lo sento nasino, non lo so. Tu Globo come lo senti? Prova a parlare, scusa. Vediamo un po' così, dai, c'è cambiato qualcosina. Sei un po' nasino, il segnale ce l'hai, sei 9 e qualcosina di più, però sei un po' nasino, non so che microfono stai utilizzando e dove sei soprattutto. Capo, dai, sono di passaggio qua, non avvieni. E dove sei? Che zona sei? Siamo vicino a Plaza Mona, qua c'è scritto, dai. Ok, no, dai, è un po' nasino, se sei in macchina già stai andando bene, dai. Probabilmente Gianni ti ascolta meglio, più forte di me. Come l'ascolti già? Io l'ascolto bene, però la voce è nasina, non un po', si sente un bel po' nasina. Magari sto usando un microfono normale, dai, quello lì che è dal problema. E è meglio che non io. Ma io continuate voi, se non faccio nulla. Ciao di nuovo a tutti. Ciao, ciao. Ti saluto, grazie mille, Franco GB da questa parte comunque. Ciao Franco, ma di dove sei? Sassa? Almeno un'altra cosa. Ciao Sino. Ah, io la visite tipo 4 boccalotti, gà. Ciao Franco. Ciao Sino, agito, piago di bidone, donna. No, sto provando un microfono, vai. Solo che non riesco a far andare bene. Sì, dottor Fischia Frusci, sì. Ripeti già. Va bene, dai, ciao, ciao. Divertitela. Ciao, ciao, Tino. Ciao, ciao, ciao. Sto facendo roba. Ciao, dai, sto provando... Non è come a per vedere se bene. Dino, la radio ogni tanto ti manca e poi c'ha scarica a voi. Con questo, con questo. Con questo? Oh, oh, tu che sei una strana. Va bene, sono dall'altra parte di casa. No, oh, sei uscita a scarica e poi si è mancato di radio a volte, capito? Si è abbassata di colpo. Va bene, dai, dai, tanto devo controllare i microfoni. Ok, ciao, ciao, riprendetevela. Adesso sei uscito bene. Ho piazzato un altro microfono già. Caffa, caffa, va bene. Allora, ti trattieno, te ne stai andando, se no spengo tutto e buonanotte. No, per dirti la verità, già sono appena entrato a casa e ho provato questo microfono qua, vedo se andava bene in questa radio. E per dire la verità, sono entrato a mettere delle spezie qua nel container che mi servono, quindi sto chiudendo e mi devo fare la doccia. Ciao, adesso sto uscendo bene, probabilmente c'è la polvere nel microfono. Beh, questo è un po' abbandonato purtroppo, non utilizzo quasi niente. Questo è il Seat SSB. Già va bene, dai, un microfono normale, però va bene adesso. Prima stavo uscendo a scarica e mancava di radio ogni tanto, probabilmente c'era il PTT che c'era qualche po' di polvere, magari muovendolo l'hai messo a fuoco. Non so cosa dirti, vabbè, questa dovrebbe essere amplificata la radio, eh? Sì, ma già va bene, dai. Già va bene. È l'altro che vorrebbe controllato. Va bene, dai. Guarda se riesco a alzare appena appena il volume in questa, guarda un pochino. Vediamo se ha cambiato qualcosa Gianni. Guarda, 1, 2, 3, prova. E adesso me l'ha amplificato. Sicuramente, dai, ho toccato quel dittino, me ne sono accorto. Va bene, ti saluto, se coincide più tardi già, devo andare a sciacquarmi che sto rientrando dal lavoro a prendere Gabriele da calcio e quindi ho fatto tardi oggi. Vabbè, vai tranquillo, sarà anche stanco, vai a farti questa doccia così ti risveglia un po'. Sì, mi rigenera, ciao ciao ciao a tutti. Ciao, vabbè, ciao, ci sentiamo, avanti che rimane. Antonio, vecchietto. Thank you.